Riconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800 24 00 24, linea aperta da questo momento a tutti i tifosi dell'Inter che hanno ancora voce e fischi dopo il pomeriggio allucinante di San Siro. Uno 0-0 che non regala niente alla squadra di Mazzarri. Pensate in classifica in questo momento: quota 33, 23 punti di distacco dalla Juventus, appena 5 più del Milan, che 3-4 settimane fa sembrava condannata alla lotta per non retrocedere. Ciao Carlo. Ciao Giovanni. Sto guardando Ilaria D'Amico in completo nerazzurro. In completo nerazzurro. Oggi c'era San Siro. Oggi c'era San Siro, carissimo Carlo. Vandanara e c'erano Icardi e Maxi Lopez in panchina. Pensa che triangolo. Sì, un triangolo perverso. Tronista non può che stare in panchina. Però l'Inter, se non batte il Catania, chi batte? Cioè, mi domando questo. Se non batti l'ultimo in classifica in casa dopo una settimana come questa, ci vuole una scossa da quelle parti, che venga dal mercato, che venga da Tuir, che venga da qualche parte, però mi sembra veramente piatta l'Inter. Sì, io faccio fatica anche a trovare le responsabilità, le chiediamo a casa, gli amici magari che stanno uscendo da San Siro. 800 24 00 24, dopo le 18 ne parliamo con un interista doc che questo pomeriggio è stato a San Siro, Paolo Rossi, non quello del mondialito, Paolo Rossi, dopo le 18. Ti leggo un tweet di Flavio Briatore: erano le 4 di pomeriggio, il 4-2-3-1 è veramente incomprensibile, Seedorf sei fuori, guarda com'è il calcio, poi tutto è cambiato. L'ho visto anche l'altra sera, Briatore, in quell'improponibile show. Seedorf sei fuori, invece Seedorf è dentro, perché è chiaro che il Milan è una squadra che è ancora malata, è una squadra che non gioca bene, è una squadra che non sta benissimo fisicamente, che però ha vinto e fa tutta la differenza del mondo, e non meritava di perdere perché tutto sommato ce l'ha messa. È chiaro che secondo tempo è stato difficile, però sai, una squadra che sta lì con la testa, che alla fine riesce a trovare quei due gol. A proposito, Balotelli, dove lo mettiamo? È sempre un brocco? No, non è un brocco. Oggi ne ha tirati un po' in curva, un po' sulla barriera, sì. Poi alla fine mi sembra che il Cagliari gliel'abbia mezza regalata. Prima pagina. Doveva essere la domenica del riscatto con Tuir a San Siro, l'ultima in classifica come avversario, un milione di ragioni insomma per tornare a vincere, invece niente, solo fischi e contestazione. Catania vicinissimo dunque, strappare il primo punto esterno del suo campionato, potrebbe essere un'iniezione di fiducia molto importante, e così è, finisce 0-0. Sembrava il destino anche del Milan, anzi peggio, i fantasmi per il gol di Sau, il vento forte di Cagliari, il 4-2 fantasia preso a pallate. Poi è cambiato tutto proprio alla fine, come con Allegri tante altre volte prima del diluvio. La palla gira, sotto porta Pazzini, 2-1! Intanto il campionato è aperto più che mai, ammesso che si fosse chiuso. A Verona quest'anno sarà difficile passare per tutti. Garcia l'ha fatto, anche rinunciando a Totti e Pjanic. Domenica da incorniciare con la Juve nel mirino. Sappiamo che la Juve alla fine del campionato deve ancora venire a Roma. Come io ho detto, noi dobbiamo fare il nostro, dobbiamo essere pronti in caso che gli altri callano. Questa giornata sul piano matematico è veramente una buona giornata per noi. Juve che riposa dopo le fatiche di Roma, l'Olimpico non porta bene quest'anno e Conte, pensate, ci dovrà tornare l'11 maggio. Il pareggio con la Lazio vale oro o è la prima frenata di una macchina fin qui perfetta? Penso che la squadra anche oggi ha dimostrato perché è in testa la classifica, quindi per chi magari nutrisse dei dubbi. Penso anche che nelle difficoltà oggi si è visto comunque una Juventus che non ha mai mollato. E intanto c'è chi aveva previsto tutto per tempo, l'aveva previsto e l'aveva anche detto, venerdì alle 14.30, impossibile nascondersi, sentite. Io voglio parlare della crisi della Juventus perché è reale, latente, pronta ad esplodere. Tutti convocati. Ai poteri del mago Telma, carissimo Carlo Genta, non fare il modesto. No, io stavo parlando della questione dell'aria d'amico. Parlando della crisi della Juventus. Ma quale crisi? Ma non c'è nessuna crisi. No, è molto divertente sentire Garcia che ringrazia la Lazio. Giornata positiva sul piano matematico, numerico, eccetera, eccetera. Grazie Lazio. Però, insomma, non mi sembra che vittoria di tappa, certamente la Roma oggi molto bene a Verona, però io resto di idea che questo campionato sia strachiuso. Questo campionato quindi è riaperto. Come si fa a dire che è chiuso con 6 punti di vantaggio, 17 partite da giocare che fanno 51 punti? È riaperto. Fai il sondaggione, chiedilo agli ascoltatori. Facciamo il sondaggione, allora 800-24-0024, questo campionato è o no riaperto? Poi ci mettiamo anche un po' di pepe. Sei pronto a rischia tutto? Sono prontissimo e posso aggiungere. Vai, aggiungi. No, aggiungo solo che con Allegri questa partita il Milan non avrebbe mai vinto. Oh, Allegri ne ha vinte tante di partite così, le ha anche pareggiate a Torino, partite giocate male. Quest'anno non l'avrebbe mai vinta. Sei pronto al rischia tutto allora? La Roma con Nainggolan è fin qui davvero l'unica che si è avvicinata alla Juventus e si è rinforzata, aveva ragione Conte? Certamente sì. Garcia, Bastos lo vedremo. Garcia ha tenuto fuori Totti. Io dico che in questo momento non è un danno per la Roma. Io dico di sì, Totti è il giocatore più importante della Roma, lo è ancora, lo sarà ancora, almeno per quest'anno. Parere del tifoso juventino da social network: adesso regalano i rigori alla Roma perché tutti tifano per il campionato riaperto. E allora al Torino cosa devono dire? All'Atalanta cosa devono dire? Rigore più regalato di quello non ce n'è. Ma era regalato il rigore alla Roma o no? Quello che ha chiuso la partita col Verona? Certamente sì. Da 3 partite il portiere della Juve prende 7 in pagella. Che fine ha fatto la difesa imperforabile di Conte? Normale calo fisiologico, è normale anche che ogni tanto prendi gol e ogni tanto perdi qualche punto, ma non vedo nessuna crisi. Senti Conte ieri sera in sala stampa, Conte è particolarmente carico, è nervoso. Ma lei deve fare il giornalista, lei non deve fare il tifoso, capisce? Ma lei fa il tifoso, ma io mi rifiuto di parlare con lei perché lei è un tifoso, capisce? Io sono qui per parlare di discorsi, lei mi parla di che cosa ne penso, il rigore palese, non palese. Dico rigore, l'ha detto che c'era, bene. Ma tu hai capito perché Conte è così nervoso? Perché è normale, Conte è così ed è per questa ragione che sta sulle palle molti, però è il normale Conte di sempre. Ma la Juve ha 100 giorni per convincerlo a rinnovare, farebbe bene a pensare a un piano B? Secondo me sì. Anche secondo me, io ho detto molte volte che se fossero lungimiranti programmerebbero un futuro senza Conte. Ascolta Marchisio. Poi dispiace anche un po' il fatto che si stava parlando ora dell'episodio del rigore, perché 2 anni e mezzo fa io avevo uno stesso coinvolgimento col portiere dell'Inter e non arrivai più al pallone e non ci fu l'espulsione. Stavo chiedendo le stesse cose oggi all'arbitro. E però lui dice che è espulsione, quindi volevo vedere perché l'altra volta non l'avevano dato. Non ho capito, gli errori arbitrali, veri o presunti, non erano l'alibi dei perdenti? Sì, certamente, mi vengono in mente molte altre espressioni, ma mi limito a dire mind games. Io mi limito a dire Buffon che se ne va dalla panchina nel finale di Roma-Juventus, Marchisio che esce con queste parole dopo Lazio-Juventus, non lo so, scricchio lì, ma questo è quello che penso io, 800-24-0024, dammi comunque un voto al Milan di Seedorf, quello di oggi. Molto al Milan di Seedorf è 6 e mezzo, non, certamente non di più, ma 6 e mezzo perché ha vinto nel finale, se no era 5 e mezzo. San Siro ha contestato duramente Branca e Fassone, si è visto Toir con le mani in faccia, secondo te chi gliel'ha fatta fare di prendere l'Inter, intendo? Ah, non ho idea, forse suo papà, forse qualche piano che noi non conosciamo. Certamente adesso si renderà conto di essere una realtà molto strana per lui. Magari si sarà anche un po' pentito. 800-24-0024, linee aperte, traffico. Tutti convocati. 800-24-0024, lo ripeto, microfono aperto per sfogare la vostra delusione se siete tifosi dell'Inter, per dirci che cosa ne pensate sul campionato aperto o no. C'è chi scrive via sms al 349-238-6666, Genta Docet, il campionato è chiuso, oppure Alex da Taormina che dice: voi continuate a dire che è riaperto perché la Juve non può continuare a correre così, ma date per scontato che anche la Roma continui a vincere. Facciamo un salto a San Siro dal nostro Dario Ricci. Dario, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Giovanni, beh qua atmosfera tra il deluso e lo sbigottito, perché in realtà tanti temi in tavolo, dalla contestazione della curva contro il direttore dell'area tecnica Branca, il direttore generale Paussone, indicati come i colpevoli del pasticciaccio brutto Vucinic, chiamiamolo così, e poi lo sbigottimento per quest'Inter che non reagisce agli stimoli di nessun tipo da parte di Mazzarri, che porta a casa questo deludente 0-0. Ha incrociato Toir sulle scale interne di San Siro, lo ricordiamo spesso, i dirigenti, il presidente dell'Inter fanno quella scaletta che scende e porta anche verso la sala stampa. Sì, è vero, quello è il percorso, ma Toir si è tuffato subito negli spogliatoi. Si è nascosto. È subito negli spogliatoi, sì, chiaramente il sorriso stereotipato di rappresentanza non è mai mancato in questi 90 minuti, ma ha preferito incontrare subito la squadra e la delusione è palpabile. Sì, Mazzarri vattene, scrive un amico al 349-238-6666. Dario, resta lì, torniamo fra un paio di minuti da te. Intanto Ulisse dalla provincia di Caserta, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Buonasera. Senti, volevo dire due cose. Dica. Una che riguarda il come mai la Juve, pur avendo un numero di tifosi altissimo, 14-15 milioni si parla, in Rai, nei mass media, come numericamente, come giornalisti tifosi della Juventus non ce ne sono. Faccio un esempio. Martedì sera, per la partita della Juventus-Roma, i giornalisti della Rai, uno tifoso della Lazio e l'altro tifoso del Milan, Dolcetti, ogni volta che attaccava la Roma dicevano peccato, peccato. Cioè, questa è mancanza di rispetto per i tifosi. Sì, però per carità Ulisse, evitiamo il manuale Cencelli, la lottizzazione anche per tifo di squadre. Carlo, cosa ne dici? Adesso senza difendere, i colleghi della RAI ci penseranno loro. Ma ci penseranno loro, ma chi se ne frega? Cioè, qual è il problema? Ognuno ha il tifo che ha e se lo tiene, ma poi perché essere tifosi, perché vedere in modo anche un po' perverso queste cose. Alla fine, secondo me, le partite si guardano e si deve maturare una convinzione personale, poi chi se ne frega di quello che dicono la televisione, di chi sono i commentatori. Ulisse, se ha qualcosa ancora da dire, prego. Volevo dire, secondo me il campionato non è chiuso, è di più. Visto il suo collega che c'è tutti i giorni con tutti i convocati, lei è abbastanza anche juventino, mi sembra, Ulisse. Sì, sa cosa le dico adesso, amichevolmente. No, io le dico che sono 51 punti. Aperto, sì. Se lei è convinto che ha aperto, quindi sa quello che dice, lo pensa veramente. Se lei vuole scommettere 10.000 euro, io faccio tanti chiedi. Se li avessi, Ulisse, 10.000 euro. Io non ho 10.000 euro, però il campionato con 6 punti e 17 partite, abbiamo detto, è assolutamente aperto. Grazie Ulisse. Sentiamo Rolando Maran, 0-0 del suo Catania San Siro, Sky. Sono preso il posto per poterlo fare. Ilaria. Sentiamo se riusciamo a intercettare Maran, che mi sembra evidentemente molto soddisfatto di quello che ha visto oggi in campo. Catania, che è anche andato vicino a vincerla questa partita, soprattutto nel secondo tempo, quando l'Inter piano piano ha rallentato. Sentiamo Maran. 5, cercando di chiudere bene soprattutto l'Inter sugli esterni, perché riesce sempre a mettere in difficoltà qualunque squadra. Ci siamo riusciti, magari nella prima parte l'abbiamo fatto un po' troppo timidi, non siamo stati coraggiosi nel andare a prenderli alti, nella seconda parte è nettamente meglio. Carlo, prima di salutarti, domenica Juventus-Inter e Roma-Parma, c'è il rischio di ritrovarle ancora un po' più vicine? Così facciamo arrabbiare Ulisse. No, ma non Ulisse scommette 10.000 euro. Chissà cosa dice Ettore, tassista di Milano, che intanto ci chiama per chiederci le quote, perché ci consigli sulle scommesse. Secondo me no, secondo me forse è più facile la partita della Juventus di quella della Roma. Ah, visto l'Inter di oggi non c'è dubbio. In questo momento è così. Sono molto curioso di sapere cosa ne pensano i tifosi dell'Inter ascoltandoli attraverso le telefonate, e secondo me Maran è anche un po' pentito, l'ho visto un po' pentito, perché oggi poteva vincere a San Siro. Sì, nel secondo tempo Catania, ripeto, ci è andato vicino, è andato più vicino il Catania alla vittoria dell'Inter. Grazie Carlo. A te Giovanni. Grazie Carlo, a domani. 800 24 00 24, torniamo a San Siro. Dario. Eccoci con il nostro ospite Giovanni Andrea Sorrentino. amico di Radio 24, ma soprattutto prima firma di Repubblica. Beh, Andrea, tanti, beh, tra le primissime, se uno fa il modesto. Primissima, primissima. Noi abbiamo i conduttori che come Mago Telma prevedono il venerdì la crisi della Juventus e abbiamo come amici, come ospiti, le prime firme. Solo prime firme, Andrea. Infatti, quindi se sei ospite di Radio 24 sei per forza prima firma, Andrea. No, risolto questo dilemma, davvero non si sa da dove partire, dalla contestazione della curva che abbiamo provato a sintetizzare, ma poi c'è anche quello che abbiamo visto in campo, un Inter che è veramente imbarazzante. No, buonasera a tutti, non ho un'esperienza pluridecennale, diciamo così, però ce l'ho abbastanza, ce n'è un po'. Io credo di non aver mai assistito ad una partita dell'Inter di questa povertà tecnica, atletica, con questa cornice di pubblico assolutamente silenziosa che dava un effetto straniante, agghiacciante quasi. Stavamo assistendo a una partita di calcio orrenda, con degli interpreti non all'altezza, in un ambiente che sembrava quello di un teatro milanese, cioè tutti in silenzio a vedere quello che succedeva. Non è successo nulla, secondo me è opportuno e giusto che Toira abbia assistito de visu a questa partita, perché dopo una roba di questo genere, dopo il periodo a cui abbiamo assistito con una vittoria nelle ultime 9 partite da parte dell'Inter, ormai con ogni evidenza si è capito che questa è una squadra che a maggio dovrà essere rimontata. Ma secondo te cambia qualcosa? Secondo te cambia qualcosa in quello che Tuir dirà, farà, penserà nei prossimi 5 giorni, quello che ha visto oggi? Ecco Andrea, ti riporto la domanda di Giovanni, quanto influirà quello che si è visto oggi su quello che Tuir farà nei prossimi 5 giorni in una settimana che finirà con Juventus? Io non so, perché questa non è una squadra che se la ritocchi in 2-3 giocatori nel mercato di gennaio può rilanciarsi, sia perché sul mercato non ci sono giocatori in grado di cambiare faccia a questa squadra, sia perché l'Inter non è in grado di ingaggiarli per ovvi motivi di bilancio, sia perché, ripeto, questa è una squadra che ha bisogno di 7-8 rinforzi, gente nuova, soprattutto nuova dell'ambiente, gente fresca atleticamente, perché quella che c'è qui non lo è più, e gente che abbia la mente sgombra, perché questa è una squadra che ormai ha su di sé un fardello di sconfitte, fallimenti, fatiche varie, che impongono assolutamente una rivoluzione. E sarà una rivoluzione magari che a molti non andrà bene, perché qui c'è bisogno di chiamare gente giovane, magari non di nome, non di grande richiamo mediatico, ma che dia nuovo impulso a questa squadra che è ormai clinicamente finita, usiamo il termine finita. Sì, sì, lo abbiamo detto, Dario, scusami, poi vi devo far sentire Sedorf, lo abbiamo detto tra l'altro anche all'inizio, encefalogramma piatto, valeva in parte anche per il Milan fino agli ultimi folli 5 minuti. Dario, ti ringrazio, ringrazio anche Andrea Sorrentino, resta lì che ci sentiamo fra qualche minuto, c'è Sedorf ai microfoni di Sky Sport. E questo spirito è la base di tutto, e quindi sono molto felice per la squadra, proprio per i ragazzi. Ecco, io ho visto che chiedevi i tuoi cose tattiche, tecniche, ma chiedevi appunto di dare una mano, di sforzarsi per gli ultimi minuti. Sono cose che non possono andare distinte, la tecnica, la tattica e la qualità del gioco. Oggi ho visto un grande Balotelli, ti ha dato tanto Balotelli. Sì, Ballo è stato molto bravo, ha dato una mano a fase difensiva, ha lottato come tutti, devo dire, hanno cercato di fare quello che avevamo preparato, e poi gli individui davanti principalmente hanno creato tanto. Il gioco non è sempre stato bello da vedere, ma con un vento così fai anche un po' fatica, ma direi che le intenzioni e poi comunque tante occasioni create sono state fatte in maniera molto, molto bene. Sì, Balotelli che certamente si è sbattuto questo pomeriggio a Cagliari, però segnatevi questo nome, Cabrera, perché è stato lui a regalare la punizione, regalare nel vero senso del termine, la punizione da cui poi Balotelli ha disegnato l'1-1. Saluto il mio uomo mercato Nicolò Schira, ciao Nicolò. Buon pomeriggio a te Giovanni, buon pomeriggio a tutti. Reduce da San Siro, dai fischi a Toir, e mi spieghi se in società all'Inter si parlano, cioè se ci sono gli osservatori del Borussia Dortmund che vogliono forse fare un'offerta per Ranocchia, perché Mazzarri lo tiene in panchina per 90 minuti? Beh, Mazzarri di fatto un po' l'ha già scaricato, quindi anche per questo si avvalora l'interesse del Borussia. Fra l'altro Borussia ieri ha fatto 2-2 faticando in difesa, quindi per questo ha dato un'accelerata alla trattativa. Ci sono anche gli agenti pronti in serata a incontrare i dirigenti dell'Inter, però è chiaro quello che dicevi tu, all'Inter ci sono due correnti, una è quella di Fassone, Ausilio nel mezzo, Branca di fatto è stato un po' defenestrato da qualche settimana, quindi c'è la confusione regna sovrana. 800-24-0024, no, si vede anche da questi particolari, perché secondo me un allenatore, io non dico aziendalista, ma qui viene comunicato, dobbiamo vendere un giocatore, mi raccomando, mettiamolo in vetrina. Adesso giocavi contro il Catania, secondo me il passaggio a Ranocchia si poteva anche far fare. Alfonso da Pavia, buon pomeriggio. Ah, buon pomeriggio. Prego. A voi tutti. Io vi ringrazio per questa opportunità, più che altro io non ho visto la partita, purtroppo ero a un'assemblea. Beato purtroppo... lei, qualunque assemblea tranne quella condominiale è stata meglio. No, sì, certo, quello del Movimento 5 Stelle. Sì, sì, ma meglio di sicuro, meglio di sicuro. Per dire anche un po', ecco, quello che ho dentro di me, cosa si muove, cioè, aria nuova, cerco di respirare aria nuova. Cioè, l'Inter, come tutte le altre squadre, come tutto il campionato, penso, scusate se mi permetto, perché non è mia prerogativa, non sono un tecnico, però vedo le cose in modo, da un'angolazione diversa, cioè, dal punto di vista etico, stiamo andando su una strada... molto molto pericolosa, cioè se allo sport togliamo il senso dello sport e quindi gli diamo un taglio, diciamo, finanziario, economico, perché essendo un calcio spettacolo lo esige, ecco, si perdono di vista tutte le cose, tutti i rapporti. Sì, questo cosa c'entra, Alfonso, con la crisi dell'Inter, però? La crisi dell'Inter, perché l'Inter, come diceva qualcuno prima, ci sono tante correnti. Le correnti portano a un... Niente, portano anche che è caduta la linea. Pazienza, magari proviamo a riagganciarlo. 800 24 00 24, c'è Seedorf che sorride, Gagliani un po' meno. Gagliani fanno rivedere alcune immagini di questo pomeriggio difficile del Milan a Cagliari. 800 24 00 24, torniamo subito. Perché il DNA uno non lo perde. Può avere un po' di virus un attimo, ma questo antivirus sta già arrivando. Tutti convocati. 800-24-0024, c'è un bel siparietto a Sky, ci sono insieme Seedorf e Mazzarri. Seedorf che ride, ma del resto ride da quando è arrivato in Italia, Mazzarri un po' meno, vediamo se riusciamo a intercettare le prime parole dell'allenatore dell'Inter, Mazzarri. È giusto dire che ha fatto troppo poco l'Inter rispetto a quello che lei si aspettava? Ma sono tante variabili che concorrono alle prestazioni. Tutta la settimana lo scetticismo che avvertivano, non si è sentito poco la nostra curva. Ragazzi, l'ho detto dall'inizio, quelli che stanno giocando ora non sono giocatori che sono abituati a certe pressioni, se in casa bisognerebbe un po' aiutarli, c'era tanto entusiasmo, sembrava una partita a porte chiuse, si sentiva, no? È chiaro che poi loro ci devono mettere di più, devono, come gli ho detto, ma... sono cose che chi ha fatto calcio le conosce. Poi in questi casi purtroppo l'episodio della svolta non c'è mai, non facciamo gol quando lo dobbiamo fare. Già si è visto quando si è messo un pochino pressione al Catania con due trazioni, due quasi gol, quando il pubblico si è un po' entusiasmato, allora i ragazzi hanno fatto di più. Ci vuole quell'episodio che ci faccia svoltare, soprattutto in casa si sente che c'è un po' il freno a mano, al di là dei nostri demeriti, insomma, si avverte questo momento. Oggi aspettavamo tutti gli episodi, comunque le occasioni l'abbiamo avute, in questi momenti non siamo tranquilli, si sbaglia, non si fa le giocate serene. È colpa del pubblico che oggi non ha tifato. Io girerei a Mazzarri quello che scrive Danilo da Genova, 349-238-6666. L'Inter ha 30.000 abbonati per cosa? I tifosi meritano rispetto. Quando si compra qualcuno, io ho paura della Serie B. E domenica con la Juventus ne prendiamo una carrettata. Magari c'è un po' troppo pessimismo, però credo che debba essere per prima la squadra a trascinare l'ambiente. E se oggi non è successo a San Siro, penso che la colpa non sia dei tifosi. Alessandro dalla provincia di Milano. Alessandro, buon pomeriggio. Buonasera Giovanni. Prego. Buonasera, complimenti per la trasmissione, vi seguo tutti i giorni. Grazie. Volevo fare due considerazioni, sono tifoso juventino, uno juventino obiettivo. Uno su quello che ha detto lei e la discussione che faceva prima con Carlo, il campionato non è assolutamente chiuso. Assolutamente. Ero presente 13 anni fa, quando la Juventus di Carlo Ancelotti aveva 9 punti di vantaggio a 7 giornate dalla fine, e quando perdemmo uno scudetto scellerato nel pantano di Perugia. Sì, ma uno scudetto così l'ha vinto anche il Milan in rimonta sulla Lazio, l'aveva quasi vinto anche la Roma in rimonta sull'Inter di Mourinho, cioè una squadra che poi ha vinto tutto in quella stagione e che aveva 13 punti di vantaggio, salvata da Pazzini in Roma-Sampdoria. Come si fa, lo ripeto Alessandro, hai ragione, a dire che questo è un campionato chiuso adesso con 6 punti e siamo al 26 gennaio, prego. Anche se questa Juve penso che sia più forte di quella del 2000 di Ancelotti. E poi un'ultima considerazione, la ringrazio per la pazienza, non sono stato decisamente e contrariamente d'accordo con la formazione che ha schierato Conte martedì all'Olimpico. È stata una vergogna. Come? Troppe riserve. Assolutamente sì, con 8 punti di vantaggio è una partita importantissima, secca. Non si gioca con giocatori impresentabili. Il primo su tutti purtroppo è Giovinco, che non è un giocatore da Juve. Una vergogna aver pagato. Sì, poi soprattutto Giovinco sta giocando poco, quasi niente. Secondo me diventa anche difficile. Allora, poi è ingeneroso prendersela con Giovinco. Sai Alessandro a chi giro le tue considerazioni? Ad Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio. Alessio, ci sei? Allora, c'è qualche problema sulla linea, la ripristiniamo. Giovinco non è vendibile, Nicolò, per problemi di bilancio. Per motivi di bilancio, esatto, è stato iscritto 11 milioni quando fu riscattato dal Parma, e quello è il problema. Si cercavano acquirenti, però tanti sondaggi, offerte poche sinora. Cioè, o arriva qualcuno, ti offre 15 milioni in questo momento, oppure Giovinco semplicemente non è vendibile finché non si abbassa il suo peso sul bilancio della Juventus, ed è il motivo per cui è molto più facile che se ne vadano o Vucinic, e poi capiremo che cosa sta per succedere, oppure Quagliarella, che sono comunque entrambi sul mercato, facile che uno dei due parta. Sentiamo ancora Mazzarri. Un infortunio grave, non hai 90 minuti, poi nel momento in cui tu non vinci, c'è Milito in campo che spenti la zampata, nel momento che tu, che anche per psicologicamente non levi Milito devi vincere, cioè ragazzi, poi va bene, giusto, oggi si è giocato a 4 gli ultimi minuti, si è rischiato anche, ha giocato Kovacic, ha giocato Alvarez, si è giocato con tutti i giocatori predisposti alla fase d'attacco. Sì, la cosa preoccupante per l'Inter è che oggi veramente le ha provate anche tutte Mazzarri, ha messo tutta la qualità che ha in questo momento la squadra, che è poca. Alessio, ci sei? Sì, ci sono. Ecco, una qui sera. Alessio Tacchinardi, ciao, buon pomeriggio a te. Ciao, buon pomeriggio. Allora, che opinione hai sul campionato, riaperto o no? Ma guarda, io non ho perso uno in vantaggio di 8 punti e 7 giornate dalla fine, quindi non è chiuso prima, e adesso sicuramente è nettamente più aperto. E anche bello, dai, è bello così, è bello che comunque ci sono due squadre che stanno facendo un ottimo calcio. La Roma è una squadra molto interessante, con giocatori di valore e un grande tecnico. La Juve sta facendo qualcosa di straordinario, quindi sicuramente è riaperto ed è bello del calcio. Sicuramente gli altri si stanno staccando, perché il Napoli sta facendo dei passi falsi, sta prendendo tanti punti con squadre che magari potrebbe fare qualcosa in più. E quindi sono due squadre, Roma e Juve, che se la giocheranno fino alla fine. Non era chiusa a 8. Sicuramente tanto meno è chiusa 6. Tra l'altro, secondo me, qualche segnale leggero di cedimento c'è. Oggi tutti scrivono giustamente: Juve di Ferro è pareggiato in 10, comunque contro una squadra che si è ripresa. Però io lo ripeto: da 3 settimane il portiere della Juventus è il migliore in campo. Comunque prende 7 in pagella, malgrado tutto, la Juventus prende gol. Poi c'è di mezzo l'eliminazione con la Roma in Coppa Italia. Che idea ti sei fatto, tu che lo conosci, del nervosismo di Antonio Conte? Ma io penso che sia un po' troppo infastidito dalle critiche, anche perché sì, esagera, secondo me esagera. Sì, però è anche vero che sta facendo qualcosa veramente di straordinario e c'è sempre qualcosa da criticarlo, però sicuramente in un momento magari un po' di difficoltà. Io la sensazione che ho della Juventus è che sempre a gennaio, quando c'è la sosta, caricano molto a livello fisico per poi dopo, tra virgolette, volare in primavera. Quindi in questo momento è vero, e la Juve in difficoltà, non è più straripante fisicamente, ma soprattutto io ieri sera nella conferenza stampa post partita, Antonio, le ho dato un dato un po' preoccupante sui calci piazzati. Questa squadra ultimamente sta molto soffrendo su palle inattive, un po' disattenta, ha preso dei gol con la Sampdoria e anche ieri è stata un po' aggraziata con una grande parata di Storari su Klose. Quindi penso che ci sia un po' di appannamento fisico e a volte un po' di deconcentrazione sui calci piazzati. Siamo nei famosi 100 giorni, la Juventus deve convincerlo a rinnovare o no il contratto, comunque a restare a Torino. Nicolò, c'è qualche segnale contrario? Io ho detto che secondo me la Juve farebbe bene a pensare a un piano B. C'è anche qualche sirena, insomma il Monaco spinge tanto, Ribovlev vuole fare un grande squadrone. C'è stato qualche contatto diretto al di là delle parole, dell'ammirazione? No, qualche sondaggio col fratello Daniele, che comunque è colui che cura gli interessi di Antonio Conte, c'è stato, però la fase è ancora prematura, credo che in primavera, verso marzo-aprile, verranno sciolte le riserve, un po' come è accaduto l'anno scorso. Alessio, la Juve farebbe bene a pensare a un piano B? Io penso che il piano B potrebbe esserci se a fine stagione colloqui con la società. Antonio, secondo me la sensazione è anche quando gli fai le domande, quando io ogni tanto sono in tele, gli faccio le domande, parla mercato, parliamo a sede inopportune, cioè la sensazione sì, che un po' voglia... un po' lo posso dire, un po' scazzato. Ma io, per me vorrebbe dire, ma non può dire, giustamente, perché insomma darebbe dei titoli magari a voi giornalisti. In questo momento qua non è sicuramente la sede opportuna, però la sensazione è che vede che le altre squadre, le big in Europa, è 40, 50, 60 milioni per giocatori, e la Juve purtroppo, perché esigente di mercato, non ce la può fare in questo momento qua. Lui vorrebbe magari giocarsi alla pari anche in Champions, con magari non tanto il gruppo come c'è la Juve, ma più individualità, perché poi sono i giocatori singoli che ti possono fare male in qualsiasi sì, momento. Evitando magari di buttar via una qualificazione in un girone che potevi tranquillamente superare, perché poi ci sono anche le colpe sue, non è soltanto il problema di non potersela giocare alla pari con chi spende 40-50 milioni di euro. Quest'anno sì, quest'anno onestamente un conto se te la giochi col Bayern, allora dici sì, hanno delle individualità diverse. Sì, quest'anno il fatturato però, il girone... del Copenaghen, del Galatasaray, non credo sia superiore a quello della Juve. No. Grazie Alessio. Ciao, un abbraccio, buon lavoro, ciao a tutti. Ciao, grazie Alessio Tacchinardi. 800 24 00 24, ci sono Francesco da Bari, Claudio da Udine. Francesco, buonasera. Prego. Buonasera, mi saluto, sono Alessio Tacchinardi. Dico solo due considerazioni. La Juventus ha bisogno di due fasce, due innesti sulle fasce, giovani ma per il futuro. E poi la considerazione più grande per Mazzarri, se Mazzarri deve lasciare subito l'Inter perché sta bruciando la sua carriera, perché ho altri 6 mesi là e non sarà più un tecnico stimato per la Serie A. Credo che almeno per ragioni di bilancio resterà l'unico tecnico senza esoneri, Nicolò, perché sì, non credo che l'Inter abbia in previsione, non dico di esonerare Mazzarri, ma anche solo l'idea di pagare un secondo allenatore, vista la situazione. Almeno fino a giugno sarà così, poi per giugno però bisognerà vedere cosa potrà accadere, perché anche il cambio dirigenziale potrebbe dar vita comunque a nuovi sviluppi per la panchina. Piacciono alcuni profili di allenatori internazionali come Pochettino del Southampton e Frank de Boer, che sta facendo molto bene in Olanda all'Ajax. Grazie Francesco, traffico. Tutti convocati. Intanto esordio di Francesco, sconfitto a Livorno 3-1, va verso l'esonero. Davanti alle telecamere di Sky si è presentato il direttore sportivo del Sassuolo, Nereo Bonato. Sassuolo che in questo momento è terzultimo, 17 punti, dietro ci sono il Livorno a quota 16 e il Catania a quota 14. Seedorf ha detto: in questa settimana proviamo a fare un buon mercato. Oggi c'è stato anche il giallo di Essien, proviamo a ricostruirlo intorno alle visite mediche del ganese. Sì, erano spuntati dei problemi di natura fisica, un po' come era accaduto qualche mese fa con Rami, che i primi test comunque non avevano dato la completa idoneità sportiva, quindi un supplemento di visite con il famoso Milan Lab, che è stato un po' ripristinato destinato in mattinata per Essien, però filtra ottimismo, uno dei suoi agenti Fabrizio Ferrari ha detto è tutto a posto, il giocatore insomma sarà comunque tesserato. L'ha twittato anche lui su Twitter, ha detto chi mi odia ha enfatizzato i miei problemi e sussurra i miei successi. È un giocatore che ha avuto, c'è da dire comunque per onestà di giudizio, due volte un'operazione grave ai legamenti, quindi sicuramente è un giocatore importante, ma qualche problemino l'ha avuto. Per questo motivo il Milan ha deciso di fare un supplemento di visite, però il tesseramento insomma dovrebbe arrivare. Abbiamo le cifre, perché si è favoleggiato su questo stipendio dimezzato. Non è proprio dimezzato, però sicuramente allungando di un anno rispetto al Chelsea, comunque ha fatto uno sconto il giocatore ghanese, prenderà 1,5 milioni da qui a giugno e poi un altro anno di contratto, 3 milioni netti, quindi una cifra comunque importante per un giocatore che ha 31 anni, che è stato un grande campione, ma che al momento, vuoi per i problemi fisici, vuoi perché il Chelsea l'ha scaricato a zero, rappresenta una scommessa. Sì, quest'anno ha fatto 23 panchine o tribune su 28 partite tra Premier League e Champions League con il Chelsea. Claudio da Udine, 800 24 00 24, Claudio, lo ricordo, microfono aperto per fare il processo all'Inter, questo sconcertante 0-0, per parlare del Milan che si è salvato a Cagliari, del campionato, di quello che volete. Poi vi ricordo che dopo le 18 arriva Pierluigi Pardo. Claudio, buonasera. Prego. Io ho assistito alla partita Inter-Catania. Sì. Decisamente una brutta partita, ha giocato male l'Inter, non ha giocato particolarmente bene nemmeno il Catania. Volevo fare un'analisi su 22 interpreti in campo, a parte Frison e le Grottaglie, 20 erano stranieri. La domanda sorge spontanea, ma è possibile per uno spettacolo così mediocre andare a pescare tutti questi interpreti, tutti questi giocatori all'estero? Ci sono migliaia di ragazzi che giocano italiani, non per fare nazionalista a tutti i costi. Sì, meglio di così. Meglio di così sicuramente. Meglio di così sicuramente. E poi ci sarebbe anche un risparmio per le società, ci sarebbe anche sarebbe più rinvigorito anche tutto l'ambiente, credo, no? Sì, oggi c'è anche chi ha giocato assolutamente senza italiani, l'Udinese a Parma e ha perso, ha iniziato con 11 stranieri su 11, penso che lei abbia ragione, però penso che poi per essere da Inter o da Milan ci voglia tanta qualità e ci voglia anche tanto carattere, e poi alle volte si favoleggia tanto sui giovani che escono da questi settori giovanili, in realtà non sono giocatori pronti, il problema è la qualità degli altri, di quelli che arrivano. Piero dalla provincia di Foggia. Piero. Sì, buonasera. Buonasera, però abbassi la radio. Sì, vorrei dire solo qualcosa, insomma, io sono un grande tifoso dell'Inter, mi rammarico di quello che sta succedendo ancora una volta in Milan. Io mi rammarico, Piero, che si sente malissimo la telefonata, proviamo a riagganciarla. A proposito di qualità, c'è Rolando che sta parlando ai microfoni di Sky. Per la squadra e tutto, ma solo questo puoi dire. Situazione complicata. Sì, situazione complicata. Secondo me, ad esempio, Rolando è una delle immagini della caduta di qualità di quest'Inter. Niente contro Rolando. Saluto Roberto Renga. Ciao Roberto. Sì, buona domenica a tutti. Vi state sfregando le mani per il campionato riaperto. C'è chi mi ha sfidato 10.000 euro di scommessa. Il campionato è chiuso, la Juve l'ha già vinto. Io credo sia. No, 10.000 euro non li abbiamo. Io credo sia impossibile definirlo chiuso con i numeri che abbiamo detto e che tutti sanno. Sì, ma secondo me non era chiuso nemmeno prima. Cioè, sappiamo che la Juventus aveva fatto una grande rimonta, la stessa cosa potrebbe fare la Roma. Si tratta di due grandi squadre, in questo momento mi sembra che la Roma ci creda un po' di più. E secondo me la Juventus ha commesso un errore in occasione della partita di Coppa Italia, presentandosi con mezza squadra, perché rischiando di perdere, come poi ha fatto, la Juventus ha creato dei dubbi a se stessa e ha dato delle certezze alla Roma. E nel calcio la testa conta, eh? Nel calcio la testa conta. A proposito di testa, Garcia è sempre più il centro, mi sembra, di questo progetto Roma. Oggi ad esempio ha tenuto fuori Totti. Tu sai che ne abbiamo parlato già un'altra volta sulla necessità assoluta sempre comunque di farlo giocare. Mi sembra che oggi in una partita che era chiave anche per quello che è successo ieri sera all'Olimpico sia stata una scelta coraggiosa, oltre che vincente, non solo per il risultato. Sicuramente Garcia è molto bravo e lui gioca dall'inizio dell'anno in una maniera che ormai chi lo segue, insomma, almeno io lo seguo da sempre, insomma, ormai lo legge come un libro aperto. Lui il primo tempo aspetta un episodio e nel secondo tempo si gioca la partita. E devo dire che le cose finora gli stanno andando bene, per cui devo dire che ha ragione. A me sembra sempre più Capello, non so a voi, ma a me mi ricorda tanto per il modo in cui gioca. per le scelte dei calciatori che fa al momento del mercato mi ricorda sempre più Fabio Capello. Sì, oggi tra l'altro mi sembra che tra le righe Nicolò abbia anche detto che nell'ultima settimana di mercato si farà qualcosa. Sì, Johnny Eitinga è la prima scelta anche perché gli agenti ieri sera hanno preso tempo con il Galatasaray e tra stasera e domani ci saranno nuovi contatti con Sabatini. Viene via parametro zero dall'Everton, vuole giocarsi delle chance in un club importante per andare ai mondiali con l'Olanda, dunque le parti sono veramente vicine. C'era già stata un'intesa comunque fra il suo agente Fabio Parisi e Sabatini qualche settimana fa, prima di una stand-by messa dalla Roma relativamente Burdisso. L'ha scelto anche questo Garcia? Come è stato con Gervinho? Ah no, ha avallato la scelta. Chiaramente Gervinho e Bastos sono state le sue scelte fortemente volute. Le altre sono state condivise insieme a Sabatini, che negli ultimi tempi comunque insomma ha azzeccato parecchie mosse. Roberto? Devo dire che Garcia è stato determinante anche in occasione del mercato di giugno. Per esempio il portiere doveva essere Rafael, no? Quel ragazzo del Napoli, che tra l'altro è bravo mi pare, e lui ha voluto De Santis. Lui vuole gente molto robusta, molto forte fisicamente e di grande personalità possibilmente. Nainggolan per esempio l'ha voluto lui proprio per la sua duttilità, per la sua forza fisica. E ha le idee chiare. È uno strano francese, ispano francese. Sembra più italiano, un italiano che però sa esattamente che cosa vuole. Sì, mi sembra tra l'altro che rispetto a tanti suoi predecessori sia anche capace di tenere a bada la piazza romana. Io so che il discorso non ti piace, però in tanti, a partire da Capello che hai citato prima te, hanno spesso parlato dell'influenza anche negativa di queste pressioni della piazza romana con anche squadre costruite per vincere o comunque competitive. Sì, però ecco, lo dicono sempre gli allenatori che magari conoscono la piazza romana meno di quanto la conosciamo noi che ci siamo cresciuti. Io dico che a Roma le squadre hanno fatto bene quando ci sono stati investimenti o quando ci sono stati allenatori molto bravi. A me è capitato di seguire Viola o Lenzini prima, quindi di vedere squadre che poi hanno vinto. E quando hanno perso di solito non c'erano le società. Per esempio fino all'anno scorso la società qui non c'era e i risultati non c'erano. Io penso sempre che non sia colpa della piazza, però se Garcia riesce comunque a tenere tutto sotto controllo, anche grazie ai risultati, perché se non avessi ottenuti. Però volevo dire che i punti non sono 6, ma sono 6.5. Sì, 6.5. Ecco, tra l'altro difficilmente parecchie. Scalabili, perché il risultato dell'andata è abbastanza pesante, quello di Torino, 3-0 per la Juventus, quindi ci proiettiamo avanti di 17 giornate, la Roma dovrà arrivare davanti di un punto alla Juventus e non basterà arrivare a pari punti. Grazie Roberto Renga. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie a Roberto Renga. Noi ci fermiamo per qualche minuto. 800 24 0024. Da questo momento fatelo questo numero per prenotarvi. Dopo le notizie torniamo. Ci sarà anche Pierluigi Pardo. La domanda è: di chi è la colpa della crisi dell'Inter? Chi deve pagare? È giusto che vadano via Branca, Fassone, Ausilio, gli uomini di mercato? Oppure è colpa di Toir che deve decidersi a investire? 800 24 0024. Prenotatevi per intervenire in diretta. Tutti convocati. Carissimo Pier, ci sei? Eccolo, come va? Benissimo, sono qui col mio uomo mercato preferito, Nicolò Schira. Hai sentito? Sta diventando anche il mio uomo mercato preferito, ha grande qualità, personalità, certezze. Poi lui va a cena con tutti. Ad esempio, qual è l'ultima volta che sei andato a cena con Sabatini? Beh, Sabatini qualche settimana fa, anche perché adesso ha fatto un po' il giro d'Europa tra Barcellona, Londra e Roma, però tenteremo di riagganciarlo a febbraio, quando lui comunque bazzica sempre in zona Visconti Palace quando sta a Milano. E invece il telefono di Alessandro Lucci funziona, aggancia, non aggancia? Funziona bene, funziona. Giovanni, ricorderai mercoledì avevamo parlato che sarebbe tornato alla carica l'Inter con un prestito oneroso e la direzione è quella, 2 milioni subito e riscatto obbligatorio, anche se di fatto insomma è un gentleman agreement a quota 7 milioni a giugno. Vucinic spinge per l'Inter, Mazzarri lo vuole a tutti i costi e visto l'attacco nerazzurro di oggi penso insomma che il montenegrino serve come alla squadra nerazzurra. Anche se la verità, carissimo Pier, è che abbiamo scherzato fin qui, abbiamo scherzato per 23 giorni. A me fanno impazzire, te lo confesso, queste trattative che iniziano il 2 gennaio, siamo al 26, non sono ancora finite, sono una bella commedia. Sì, beh, sicuramente c'è la stessa dinamica del mercato estivo si accende negli ultimi giorni, e credo che insomma in piccolo il mercato invernale, il mercato di gennaio poi alla fine potrà ricalcare lo stesso tipo di situazione. Mi sembra che ci sono parecchie squadre che devono ancora fare delle cose. Parecchie. Hai visto Toir le immagini allo stadio? L'ho visto entusiasta. C'è anche un perfido fotogramma con un Moratti quasi assonnato e un Toir con le mani in faccia. Insomma, mi sembra che in questo momento l'Inter, la verità è che non se la porta la casa con nessuno, nemmeno col Catania, con tutto no, rispetto. No, assolutamente. Nemmeno col Catania in casa. Secondo me i più burloni di tutti, visto che hanno scherzato per 23 giorni, sono proprio loro, quelli di Juventus e Inter. Oggi Vucinic è tornato ieri a allenarsi con noi, quindi come ho detto prima, a tutti gli effetti oggi è un giocatore che fa parte della rosa e quindi dovranno instaurarsi delle nuove dinamiche. I'm here to support the team and of course the most important starting Monday. We meet all the management to evaluations and to grow the business, of course. I mean, and also for January transfers. Insomma, Toir incontra il management, meet the management. Ci credi, Pier, che ci stanno provando ancora a fare lo scambio? Ma io penso di sì per quanto riguarda Vucic, cioè per quanto riguarda Guarin, no. Poi sono il figlio di Nicolò, ma credo che ci sia molto più interesse anche per quello che si è capito dalla conferenza stampa dell'altro giorno. Cioè, questa trattativa nasce dal tentativo dell'Inter di prendere Vucinic. Sì, ma ci stanno provando. Guarin è stata di fatto la controrichiesta da parte della Juve, poi sono state le sollevazioni di piazza. Però detto fra noi, insomma, come sottolineavate voi, mi sembra che all'Inter Vucinic o comunque un attaccante vero in questo momento possa solo servire. Insomma. Sì, un gol nel 2014. Cosa succede, Nicolò, nelle prossime 24 ore? Ma per quanto riguarda Guarin, stanno arrivando a Milano, oltre al suo agente Marcelo Ferreira, anche il padre e il fratello, che sono sempre molto vicini al colombiano nelle decisioni, e questo ci fa propendere affinché ci possa essere qualche cambiamento. Come ha detto Toir, domani è un giorno delicato, però occhio anche alle piste estere. A Galatasaray Guarin ha chiesto 5 milioni all'anno, troppi secondo Mancini. Sì, sta facendo si di cerca tutto qualcosa per non in Inghilterra, occhio Tottenham. L'altro burlone, carissimo Pier, anzi è il mio preferito, Lotito. 17-20 milioni, possiamo dire così? No, 17 ci compriamo lo scarpino sinistro. Ma come si fa, Pier, 17 milioni per lo scarpino sinistro di Hernanes? Resta lì. Lotito è straordinario. È il mio preferito in assoluto. Secondo me non si siede nemmeno a trattare con l'Inter, o no? Beh, poi l'Inter diciamo che ha commesso questo piccolo errore di mettersi in una situazione di dissociazione anche psicologica, si è messa sotto scacco da sola. Ovviamente la decisione di assecondare i tifosi, ne abbiamo parlato in settimana con Carlo, è una decisione che ci può anche stare da un punto di vista di recupero del consenso e se vuoi anche dal punto di vista romantico, no? In un mondo del calcio dove comunque alla fine dominano in tanti, è bello che i tifosi possano far sentire la propria voce, per cui io non sono di quelli che si dice però la verità è che alla fine Hernanes resta dov'è, magari Vucinic resta dov'è, assolutamente certo. C'è un altro grande personaggio della settimana, carissimo Pier, Alino Diamanti, quello che ce l'aveva con Totti perché era una bandiera, 10 milioni di euro di stipendio. Diamanti, quello lì. Noi risposte bisogna darle in campo, si parla tanto in questa città ultimamente, si parla tanto di tutti, bisogna cominciare più a vedere l'obiettivo tutti insieme, vedrai che facciamo meglio tutti. Cioè è il momento di parlare, è il momento di pedalare, ora è il momento di pedalare, perché chiacchiere ne facciamo tante e a cazzo. Oh, quanto rosica per non essere finito in Cina. Rosica, e secondo me i tifosi del Bologna non devono neanche prenderla tanto, perché comunque per Diamanti poteva essere veramente un contratto importante. È vero che uno dice i calciatori che non ci avranno mai così l'ebbrezza di uno scoperto in banca, no, voleva diventare la bandiera del Guangzhou. No, però voglio dire, non bisogna essere, sono professionisti. Diamanti in campo ha dimostrato sempre tutto quello che poteva, credo che abbia onorato la maglia di Bologna sempre, l'ha fatto anche oggi, e quindi poi che ci potesse essere l'ambizione di andare a fare un contratto importante, insomma io non, il moralista non lo faccio. No, assolutamente. Carlo dalla provincia, lo faccio io al posto tuo. Carlo dalla provincia di Udine. Carlo, buonasera. Buonasera. Prego. Niente, io dica, sono Carlo. Di famiglia con due figli. Sì. Ho un vicino di casa, sono interista e ho provato a passare il mio credo calcistico ai bambini, fra l'altro il gioco a calcio. Sì. il mio vicino di casa ha due figli ed è riuscito a mantenere la fede juventina, credo, il destino. Invece i suoi figli chi tifano? Sì, ho due figli, lui ho un figlio al quale il vicino di casa regala il poster della Juventus. Sì, e l'altro? Perché è riuscito a far diventare juventino. L'altro più piccolo e rimane interista. Sì, ancora per poco, Carlo, l'impressione se andiamo ancora avanti così. Grazie Carlo. Luigi da Brescia, Luigi. Pronto? Buonasera. Prego. Io volevo semplicemente dire una considerazione che ho sentito prima per radio, che dicevano che Conte, quando è andato a Roma per la Coppa Italia, si è un po' giocato sia la Coppa Italia che la stagione. Secondo me Conte è tutto tranne che uno sprovveduto e ha voluto dare un segnale alla società che con questa panchina non si vince né un triplettino né un triplete. Sì, Pier, però è grave, esatto. Però, vorrebbe dire sporci a rischio di uscire a posto. No, io credo che ci siano degli equilibri in una rosa importante e poi secondo me non bisogna nemmeno esagerare con l'enfatizzare questa cosa, nel senso che comunque ha fatto un turnover, sì, ma di 4-5 giocatori, non è che ha stravolto la squadra tipo Mazzarri l'anno scorso in Europa League al Napoli. Quindi la Juve all'Olimpico era competitiva, la verità è che la Roma oggi è una squadra coi fiocchi e l'ha dimostrato anche oggi, è una squadra che scende in campo, aggredisce l'avversario e io onestamente non mi aspettavo dopo la sconfitta di Torino che avrebbe avuto la forza per reagire con questa, veramente con questa cattiveria agonistica, questa qualità. Quindi ci può stare che possa perdere la partita. Sì, assolutamente. Francesco da Brindisi, Francesco. Sì, prego. Buonasera a tutti. Io sono un lustro deluso del Napoli. Sì, con quanti figli sono... che tifano per chi? Fortunatamente nessun figlio, ed è una fortuna per il figlio eventualmente, perché vedere una squadra giocare come ha giocato ieri contro il Chievo è stata qualcosa, un abominio, veramente un abominio del calcio. Io ero uno di quelli contenti quando se n'è andato Mazzarri, che nonostante vincesse non mi ha mai convinto il Napoli nel gioco. E adesso si è pentito e lo rivorrebbe indietro. Ma neanche, però io mi chiedo quando dovremmo aspettare per avere una squadra che, ecco come diceva il buon Pardo, mette in campo quella sana cattiveria agonistica, come tra l'altro fa la Juve, probabilmente anche grazie a quelli che sono le doti di Conte, perché io sono uno di quelli che pensa che Conte è il 60% della Juve. Pier, quanto deve aspettare l'amico di Napoli? Di Brindisi tifoso del Napoli. Non lo so, perché il Napoli è cresciuto tanto con De Laurentiis, è chiaro che poi l'ultimo metro è sempre più difficile, no? L'ultimo salto di qualità, quello definitivo, è sempre più difficile da fare, passare dal molto bene al benissimo, passare dall'essere una grandissima outsider a una squadra che vince. Mi sembra che questa sessione di mercato, Niccolò potrà confermarlo, insomma, faccia vedere delle difficoltà. Secondo me, lo sapete, mi annoio nel ripeterlo, ma c'è una priorità assoluta per il Napoli, difesa. Sì, quella che si sono dimenticati, che stanno cercando tutto. Per Jorginho, che è un buon acquisto, e di un altro eventuale centrocampista, il Napoli dietro deve sistemare le cose, perché gioca con un modulo con quattro attaccanti. Poi facciamo il punto, Pier. Sì, serve qualcuno di qualità dietro. Poi facciamo il punto, traffico. Tutti convocati. Io ho fatto un sogno. Era un sogno capovolto. Era un sogno dove a Milano tutto quello che andava male andava bene e dove tutto quello che andava bene andava male. Andava quasi tutto bene. Milano era piena di verde. Così piena di verde che gli alberi crescevano sugli alberi e i semafori stavano fissi sul verde. Ma non c'era casino agli incroci perché non c'erano macchine, ma i semafori c'erano ancora i marocchini. La gente si fermava, li lavava gli occhiali e i marocchini davano 2 o 3 mila lire, ma non aveva valore perché i soldi non esistevano nel sogno all'incontrario. Oh, chissà se nel sogno all'incontrario di Paolo Rossi, carissimo Pier, c'erano anche due squadre di calcio come quelle di una volta. Saluto Paolo Rossi, buonasera. Buonasera. Buongiorno. Sì, cattivo giorno per gli interisti, ma io credo per i tifosi milanesi in genere. C'erano o no in questo sogno all'incontrario due squadre di calcio? Quelle vere, non quelle che abbiamo visto questo pomeriggio. No, all'incontrario no, ma in altri pezzi che ho fatto sì. Sì. Invece oggi questo cosa c'è? Non mi sembra. Oggi cosa c'è? Oggi? C'è la partita di oggi? Sì. Ma eravamo tutti flosci, era floscio la squadra, floscio il pubblico, anch'io ero floscio, era tutto floscio. Mm-hmm. Ha ragione Mazzari a dire che è anche colpa di questo strano clima che si è creato oggi a San Siro, sembrava di giocare detto a porte chiuse. Bah, questi sono punti di vista, chiaramente questo è il suo, e lo rispetto, per amor di Dio. Però cioè, deve essere anche la partita che incita ed eccita il pubblico. Pier. Ma no, mi viene in mente lo straordinario monologo sui due rigori sbagliati da Evaristo Beccalossi, e questo mi viene da chiedere a Paolo Rossi: se questa squadra non è, al di là dei problemi tecnico-tattici, non è una delle squadre più sbiadite proprio dal punto di vista del talento, cioè l'Inter anche negli anni complicati comunque aveva dei giocatori capaci di accendere l'immaginazione, di far sognare i tifosi, magari veramente giocatori pazzi, incostanti, umorali, un po' come Beccalossi, sì. Anche come Recoba. Questa è Recoba, sì. Questa roba Recoba, oggi la punizione la metteva dentro. Sì, c'è in quest'Inter qualcuno che merita un monologo, che accende la fantasia? Secondo me, a me, cioè, per quello che sono i miei gusti, che mi piace, Alvarez, è l'unico che ha un cambio di passo diverso dagli altri. Dopodiché però la cosa più bella della giornata è stata, finita la partita, vedere Zanetti allenarsi. E questa è stata più emozionante, quei 15 minuti in cui l'ho visto correre per il campo, è stato più emozionante di tutta la partita. Sì, anche se oggi mi risulta che tra quelli contestati, fischiati, comunque messi un po' in mezzo dalla delusione del pubblico, ci sia anche Zanetti, un po' come simbolo di un Inter che non cambia. Secondo te sbagliano i tifosi? Hanno contestato Zanetti? No, in generale si leggeva anche sui social oggi, comunque c'era chi diceva anche Zanetti adesso basta, grazie per quello che è stato, è ora però di voltare pagina. Ma sì, ma internet c'è di tutto, la macchina. Sì, non sei un amante. Cazzate, a volto coperto. Quindi puoi dire delle cose stupide, crudeli, cattive, senza senso. I social network e gente col passamontagna. Paolo, c'è una corrispondenza fra la crisi calcistica di Milano e una possibile crisi della città? Cioè, il calcio è una metafora della Milano che viaggia verso l'Expo, con le sue contraddizioni, con i suoi problemi, ovviamente con le sue speranze, oppure la città sta meglio delle squadre di calcio? No, la città sta messa uguale alle sue squadre. È floscia, speriamo che... Io giro per il mondo, giro per l'Italia, grazie al mio lavoro, ma non c'è nessun paragone con la Milano degli anni 70, che erano anni duri, ma bui, ma anche luminosi. 80, che erano la Milano davvero, però succedeva qualcosa. Adesso è tutto molto sbiadito. Ma chi sta peggio fra Inter e Milan? Il Milan? Anche sì. Se è rimasto dentro la famiglia, non ha fatto la scelta che ha fatto l'Inter. Ad esempio, mi piacerebbe sapere cosa ne pensi di Toir, se ti piace, se ha il fisico per fare il presidente dell'Inter. Ma il fisico non lo so, non l'ho visto di persona, mai. Dovrebbe stare un po' più qui sicuramente, perché... Il calcio italiano non è una cosa che puoi gestire da lontano. Lo dico io, che voglio dire, se ho un problema in via Padova faccio fatica a gestirlo da Porta Romana, quindi figurati l'Italia e l'Italia. Ma tu sei di quelli che... Prego Pier. No, dico, quella lettera bellissima che abbiamo letto sulla Gazzetta che racconta, certo, la passione, l'interismo, ma essenzialmente la passione vera di qualsiasi tifoso per qualsiasi squadra, l'avrà letta, ci si aspetta qualcosa di più da lui, ci si aspetta in questo momento un atto di, certo, generosità dopo aver pagato i debiti? No, bisogna dargli tempo comunque, credo. Non si può giudicare una persona in 3 settimane, lì bisogna avere un attimo di pazienza. Poi cioè, non è che se qui compriamo un campione cambia qualcosa. Qui il problema è che sì, tu dici ne serve un po' più di uno, serve cambiare un po' tutto. Sì, prego. No, quel racconto che ho scritto non era tanto sull'Inter quanto sul calcio romantico. Cioè, calcio romantico vuol dire che i giocatori si affezionano alla maglia. Per quello dico che vedere Zanetti correre per 15 minuti tutta la partita è stato più emozionante che il resto. Ma tu sei di quelli che ritengono che Toira abbia fatto il battesimo del fuoco con quel comunicato contro la Juventus, facendo saltare, se è stato lui, lo scambio tra Vucinic e Guarin, che in qualche modo sia diventato interista questa settimana? Ma secondo me potrebbe diventarlo, ci vuole tempo, non è che si diventa interista. Sì, non lo percepite ancora uno di voi? No, io non lo so, ripeto, credo che bisogna dare tempo, bisogna avere la possibilità di capire com'è l'Inter, la sua storia, il suo DNA. L'Inter ha un DNA particolare, non è una squadra come le altre, è una squadra che può vincere tre, fare il triplete e poi dopo stare per 10 anni senza niente. Mi sembra Pier ci sia un po' di freddezza, che è poi la freddezza dei tifosi dell'Inter verso questo personaggio che viene da lontano, parla il linguaggio dei soldi, ma mi pare di aver capito non tocca ancora il cuore. Freddezza ma anche grande rispetto. Ma no, secondo me è quello che secondo me lui anche dalla Thailandia era ed è un tifoso dell'Inter, deve capire come funziona questo mondo qui. Perché è vero che il calcio è cambiato, c'è la globalizzazione, c'è una squadra deve avere un'esposizione diversa, ma è anche vero che ogni squadra ha un suo carattere, probabilmente deve ancora capire il carattere dell'Inter. Sì, deve ancora entrare in sintonia. Grazie Paolo Rossi. Grazie a voi. Tutti convocati. 800 24 00 24, carissimo Nicolò Schira, eravamo in debito col tifoso del Napoli per capire quali sono le strategie, com'è possibile con 20-30 milioni, perché il Napoli è l'unica che ha i soldi da spendere, non riuscire a fare mercato. E Napoli si è focalizzato paradossalmente sul centrocampista piuttosto che sulla difesa, che sembrava la lacuna principale. Infatti anche stasera ci sarà un contatto fra Bigon e Franco Baldini per parlare nuovamente di Capoue, che comunque è in uscita dagli Spurs. Occhio anche alla situazione di Hindler, che piace al Liverpool. In quel caso il Napoli proverebbe nuovamente a lanciarsi su uno fra Martin Skrtel e Daniel Agger, che sono due vecchi pupilli nonché giocatori che ha allenato da Rafa Benitez. Quindi sicuramente quella può essere una soluzione, mentre in uscita poi ci sono Paolo Cannavaro, che potrebbe entrare in orbita Inter qualora Ranocchi andasse al Borussia Dortmund, l'ha ammesso anche la gente qualche giorno fa. Progetto giovani. Però sarebbe una soluzione low cost di tampone per 6 mesi. Ma anche no, però questo è il mio parere personale. E Armero che è stato offerto a Juve, Milan, Inter tramite scambi, ma tutte e tre le squadre hanno rifiutato questa opzione, dunque il colombiano in uscita al momento non è facile trovare acquirenti. Pier, ci sei? Eccolo! Umberto da Treviso. Umberto, buonasera. Buonasera a voi. Le piace queste... Paolo Cannavaro? Pronto? Le piace Paolo Cannavaro all'Inter? Ma in questo momento io credo che l'Inter è in asfissia, quindi qualunque dose di ossigeno può andare bene, anche Paolo Cannavaro. Non voglio ovviamente dire che non è un buon giocatore, è tutt'altro. Purtroppo da tutti quanti i ragionamenti che ho sentito in questo momento convergono in una cosa: qui c'è una crisi societaria, è evidente, purtroppo dobbiamo invidiare alcune società. Io sono interista da sempre, credo di aver tifato Inter da quando ho memoria, ho sempre qualcosa di neroazzurro con me, ecco, anche se non credo di essere un estremista in questo. La cosa che mi dispiace in questo momento è di non avere nemmeno gli sfottò dei miei amici juventini o milanisti. Questo dà il senso della profonda crisi in cui è quest'anno è caduta l'Inter. Io credo che è una società da rifondare. Noi tifosi interisti dovremmo metterci l'animo in pace, sperare che il nuovo corso, è una speranza e non una certezza, possa effettivamente fare adesso qualcuno magari mi bestemmierà dietro, quello che ha fatto la Juve quando è andata in B, ha rifondato una società, ci ha messo degli anni, ha sofferto. Umberto, ha ragione, poi io mi chiedo ad esempio Pier che fine ha fatto il progetto sullo stadio, perché la Juve proprio portò avanti in quegli anni, quelli della Serie B, della sofferenza per risalire, di Ranieri, Pier. Il progetto dello stadio, e questo vale per tutti ovviamente, non soltanto per l'Inter o per la Juve, è un progetto bellissimo, di grande prospettiva, ma è un progetto di lungo termine, non è un progetto di breve termine. Anzi, addirittura c'è il caso dell'Arsenal, per esempio in Inghilterra, che ha costruito questo stadio bellissimo, soltanto project financing, quindi finanziato dall'esterno, e ciononostante non ha fatto mercato per qualche anno. Per cui attenzione, che il mercato all'inizio è un investimento, è come quando ti compri la macchina nuova, devi risparmiare da qualche parte, poi sei felice che c'è la macchina nuova strafiga, e nello specifico lo stadio ti porta sicuramente dei grandi introiti di 365 giorni all'anno, ma in questo momento l'Inter ha bisogno di altre cose, insomma. A meno che non ti faccio un discorso ai tifosi molto chiaro, molto semplice, ci si dice 5 anni, ma io credo che il discorso sia stato fatto, il problema è recepirlo quel discorso. Vi faccio sentire Ausilio oggi, prima di Inter Catania, sul mercato dell'Inter. Autofinanziamento vuol dire cercare di fare qualcosa prima in entrata e poi eventualmente investire quello che si è ricevuto con un qualcosa in più su un giocatore che può essere funzionale al miglioramento della squadra. Chi possa essere questo giocatore con l'allenatore lo abbiamo in testa, se è possibile lo faremo. Fare qualcosa per fare non è onestamente quello che abbiamo intenzione di proporre su questo mercato. Lasciamo stare grandi progetti, chi esce dall'Inter nei prossimi 5 giorni, Nicolò? Ad esempio Belfodil è vicinissima all'intesa con il QPR, il giocatore si sta convincendo a questa ipotesi, preferiva un club più importante, però insomma non è che poi abbia tutte queste richieste. Sì, che sancisce il fallimento anche della campagna di quest'estate. Oggi abbiamo visto Taider, Riccardi è rimasto seduto in panchina, Pierre, seduto in panchina a credo 15 metri di distanza da Maxi Lopez, con Vandanara in tribù. Un bel triangolo. Antonello dalla provincia di Novara, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera, grazie di avermi convocato. Dica. Io volevo fare una riflessione ed offrirla a tutti i miei contifosi del Napoli. Sì. Perché credo che bisogna avere pazienza, cioè io forse perché sono un emigrante napoletano, per cui vissuto lontano da Napoli da quando ero bambino, sono stato più abituato a soffrire perché l'ho visto di casa, l'ho visto sempre a Milano, l'ho visto sempre a Torino, a Bergamo, a Brescia, a Verona, per cui forse noi che siamo lontani dalla città, da Napoli, siamo più abituati ad attendere. Io lo farei lavorare Benitez, perché comunque non vedo un Napoli che sta calando, vedo un Napoli che ha bisogno di qualcosa per migliorare, per cui su con il morale. Forse qualche innesto in difesa andrebbe anche bene, però secondo me Fernandez, Brito, Albiol probabilmente dovranno assimilare il gioco, sì, di Benitez. Mi sembra Antonello che siano anche pochi, visto che Benitez ha deciso, Pier, di far fuori Cannavaro. Ricordiamoci che fra un mese, poco meno di un mese, parte anche l'Europa League, che è un impegno, certo, non da poco anche dal punto di vista fisico. Cioè io non capisco come lì non si faccia qualcosa, non capisco perché lì non si faccia qualcosa, sono d'accordo con te. No, il Napoli non capisco che mercato sta facendo, è stato fra l'altro un mercato anche di incidenti di percorso, alcuni dei quali assolutamente indipendenti dalla volontà. Aulassi, il presidente del Lione, si è comportato male, ha fatto un gran rifiuto simile a quello di Toir sulla trattativa Guarin-Vucinic, perché con Gonalon era tutto fatto. Poi c'è stato lo scippo di Nainggolan, poi c'è stato lo scippo di Bastos, l'arrivo di Jorginho, ma secondo me la difesa, come dicevo prima, andava rinforzata, deve essere rinforzata, e mi aspetto ancora che qualcosa succeda. Sull'Inter mi sembra che la diagnosi invece sia molto chiara, cioè via Belfodil e Ranocchia, dentro sicuramente Vucinic, cioè il giocatore che ha in testa Mazzarri in qualche modo, con qualche formula, e probabilmente Cannavaro dando qualcosa al Napoli. Cannavaro nella difesa a 3 potrebbe avere un senso nuovamente, ma Mazzarri lo conosce molto bene. Sicuramente con Cannavaro e Vucinic l'Inter può trovare un po' di stabilità, soprattutto, sì, per quanto riguarda Vucinic, che in questo momento serve veramente come il pane. Sì, mi sembra che serva anche qualcosa a centrocampo, magari a livello di qualità, non so se si muove qualcosa, Nicolò. No, beh, il piano era quello di provare ad arrivare a Hernanes, sì, con i soldi delle cessioni. Fallito quello, è chiaro che al momento l'Inter si è fatta trovare un po' in contropiede, però potrebbe esserci qualche occasione low cost gli ultimissimi giorni. Insomma, c'è stato anche qualche sondaggio in Inghilterra, visto che insomma il Southampton vive un momento non facile ed è una boutique nella quale magari i club internazionali cercheranno di attingere a piene mani. Sì, ti leggo che cosa ha detto Mazzarri in conferenza stampa: a me piacerebbe avere campioni, anche i miei giocatori non sarebbero gelosi perché darebbero loro una mano. Ovvio che da qui al 31 gennaio spero che accada qualcosa. Il fallimento è stata la campagna acquisti di quest'estate. Sai che ho fatto il conto, 188 milioni dall'estate del triplete in poi ha speso l'Inter. È vero che ne ha anche incassati tanti, ma vuol dire che non è che Moratti non abbia investito. Il problema è che di questi ci sono due titolari, che sono Palacio e Handanovic. C'è Alvarez che sta facendo qualcosa quest'anno, c'è Juan Jesus forse perché è molto alterno. Cioè, la verità è che i soldi sono stati spesi, ma sono stati spesi male. Questo è quello che penso io. Alessandro da Venezia. Alessandro. Sì, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Ecco, molto brevemente, sono interista da sempre. Io non so se deputarmi tra i fortunati o gli sfortunati che criticano Toir, perché io ritengo Toir, questo povero Cristo musulmano, una fortuna ad essere capitato nell'Inter, non essere stato scelto a caso in una pesca di beneficenza, ad aver avuto una squadra con un patron, una delle ultime squadre patronali, voglio dire, dove il management forse è un po' diverso. Cioè Toir e Chioso si trova a dover fare, come si dice a Venezia, una bella snettata, no? Una bella ripulita dei vari Branca e della vicenda vergognosa che è successa, poi fatalità con la Juve, d'accordo, insomma non tiriamo fuori le moviole anche nell'incontro. Insomma, lei è per mandare via tutti, che credo fosse abbastanza il clima che c'era anche oggi a San Siro. Guardi, lei è stato più tranciante di me, però voglio dire, sono intanto per dare il benvenuto a Toir, che ha comunque ripianato dei debiti e si prenderà in mano ad una squadra che, con tutto il bene che voglia Mazzarri, tutta la stima che posso provare per lui, che grazie a Jonathan e Nagatomo li ha trasformati, quello che si vuole, però oggi contro il Catania io non ho visto niente di sì bello. Ma lei ha ragione, Alessandro, però Pier, il problema secondo me è che questi discorsi andavano fatti ad agosto, a settembre, quando questa trattativa si stava per chiudere, non dopo. Adesso Toir, mi sembra, anche Pier lo stia dicendo in tutte le lingue che conosce, l'inglese, l'indonesiano, prima o poi parlerà anche in italiano, però adesso è difficile farlo capire alla gente, Pier? Adesso è impossibile farlo capire alla gente. C'era un meraviglioso ossimoro del nostro ascoltatore, questo povero Cristo musulmano. Cristo musulmano è veramente una cosa geniale, gli faccio i complimenti perché veramente è geniale. No, a parte le battute, io penso che sia impossibile, ma è quello che dice Capello, che diceva Capello la settimana scorsa. Io credo che chiunque, abbiamo sentito prima Paolo Rossi, chiunque va nel merito della situazione certamente si rende conto che ci sono mille attenuanti. Toir ha messo sul piatto un sacco di soldi perché voleva ripianare la società, ci sono dei debiti. Qui questa qui è l'Inter di Moratti, insomma, lo dico non perché Moratti ha fatto delle cose eccezionali in questi anni, ci mancherebbe altro, ma questa è l'Inter di Moratti. Poi l'inerzia in questa campagna acquisti, da qui comincia a essere l'Inter di Toir, e sicuramente in questa campagna acquisti le cose non stanno andando, ma non stanno andando secondo me anche perché Toir questa campagna acquisti la sta affrontando col braccino corto, ma anche dal punto di vista societario senza affidarsi a degli uomini suoi. Cioè, l'Inter di oggi sul mercato continua a sì, è un ibrido, è un ibrido. Ma è assurdo, per certi versi è addirittura sconcertante, nel senso che chiunque arriva e prende il 70% delle quote di una società poi dovrebbe avere la legittima ambizione di comandare, lo dico proprio in maniera brutale, cioè di mettere i suoi uomini, di avere qualcuno di cui si fida. Gli uomini di Moratti, quelli che stanno arrivando adesso, Nicolò, ne abbiamo letto che Toir si è portato anche fisicamente sull'aereo che ha atterrato questa mattina da Singapore, avranno un ruolo o no in queste 5 giornate? No, avranno un ruolo di consulenza, ma più per quanto riguarda il management. Cioè, chi sportivo fa il mercato oggi dell'Inter? Branca purtroppo no. Per fortuna degli interisti ancora Pier Ausilio e Fassone, che ha provato a interessarsi, è stato uno di quelli che comunque aveva portato avanti la situazione legata a Vucinic-Guarin, per la quale la Juve comunque non molla in prospettiva a giugno. A gennaio, ormai dopo lo scandalo scoppiato, è difficile, ma per giugno Ferreira ha dato una mezza promessa nei sì, confronti alla di, fine lo faranno, di Fabio Paratici. Quello che ci sta dicendo Nicolò è che alla fine Guarin è destinato ad arrivare alla Juventus in estate, perché a gennaio la vedo difficile, insomma dopo quanto accaduto credo i presupposti siano difficili da mettere in piedi. Per giugno invece Paratici ha strappato una promessa alla gente, quindi se non arriva un acquirente, magari un prestito semestrale anche oneroso, quindi l'Inter comunque può incamerare qualcosa a livello economico, e poi a giugno le strade si separeranno definitivamente. Poi attenzione, perché Guarin è un giocatore che l'Inter sta assolutamente non utilizzando nel migliore dei modi. Un giocatore ha fatto 3 gol dall'inizio del campionato, un giocatore che fa la seconda punta, che probabilmente messo nelle mani di un'altra situazione tattica, di un altro allenatore che lo stima, potrebbe far bene. In questo hanno ragione i tifosi dell'Inter ad aver paura di una cessione, ma è un giocatore che ad oggi rappresenta una delle pochissime possibilità che ha l'Inter di fare cassa senza perdere un grandissimo. Questa è la sostanza. Sì, sì, sì. L'altro era Nokia, oggi c'erano gli osservatori del Borussia Dortmund e difatti lo abbiamo detto, è stato tenuto in panchina per 90 minuti, scelta secondo me incomprensibile. Giovanni dalla provincia di Ferrara, Giovanni. Sì, buonasera. Grazie per la convocazione. Prego. Io volevo dire una cosa sulla Juve di Conte. Fino alla scorsa domenica Conte è stato idolato da tutti, da me compreso, e secondo me sarà così perché la Juve vincerà questo campionato. Non è certo un pareggio o una sconfitta con la Roma, con la Juve B, che può destare preoccupazioni all'ambiente, a mio avviso. Altro canto, è giusto che i campionati si aprino, basta guardare in Liga Spagnola cosa sta succedendo. Però da qui a dire che la Juve possa essere raggiunta, 6 punti sono tanti, Sì, ma anche 17 partite che mancano sono tanti, i punti sono 6 e mezzo, ce l'ha spiegato Roberto Renga, Pier, sono 6 e mezzo, perché quel 3-0 a Torino pesa e non poco su un'eventuale volata a scudetto. Però io sottolineo, Pier, 3 partite con il portiere della Juventus migliore in campo, 4 gol presi. Ecco. Io ti dico, per me il campionato lo vince la Juve, rimango convinto che sia strafavorita. Detto questo, nelle ultime partite è successo qualcosa. Questo qualcosa secondo me è soprattutto la Roma. La Roma secondo me non è stata così nemmeno nelle prime giornate di campionato. Questa squadra non soltanto non prende gol, ma praticamente non subisce tiri in porta. Oggi c'è stato questo gol di Alfredson, bellissimo fra l'altro, nato da un errore di Castan, rarissimo errore di Castan, ma è tornata a essere la squadra di inizio stagione che veramente si porta, che fatica, che praticamente non fatica mai, che scende in campo con un atteggiamento assolutamente aggressivo nei primi minuti, una combattività, una ricerca dei secondi palloni, una reattività pazzesca. De Rossi, Strootman, Nainggolan e Pjanic, anche sì, poi ha trovato anche il gol di Gervinho che a inizio campionato non segnava nemmeno con le mani. Mi sembra che abbia cominciato a trovare la porta con un po' di continuità Gervinho, anche questo è un valore aggiunto in questa fase della stagione. Poi c'è Destro che non c'era, poi c'è il traffico. Tutti convocati. Allora, ancora delle curiosità di mercato. Carissimo Pier, le giriamo a Nicolò. Osvaldo si è fatto mettere fuori rosa apposta perché torna in Italia, come qualcuno ha detto. Apposta magari no, però sicuramente è in rottura con il Southampton, vuole andare via, ci sono richieste di prestito da parte del West Ham e del Valencia, lui preferirebbe l'Italia, però i Saints vogliono venderlo a titolo definitivo, quindi ci sono dei problemi, ci sta lavorando Vigorelli che è a Londra. In Italia non c'è nessuno che probabilmente ha i soldi per pagarlo. Se non facesse Vucinic, oppure la Juve, però nessuno a titolo definitivo in questo momento. Simone da Roma. Simone, buonasera. Pronto, buonasera. Prego. A tutti. Volevo fare un intervento. Io vengo da una famiglia di interisti da storica. Sì. Mia nonna guardava le partite pure della primavera. L'unica cosa che io vedo in questa Inter è che è proprio un Inter che manca sentimento. Cioè, quando c'era Moratti, non è un problema di presidente, però quando c'era Moratti c'era proprio l'amore di una squadra, si soffriva insieme. È una squadra che portava sofferenza, ma portava una sofferenza unita. Ora non c'è più nulla, secondo me. Cioè, non sì, c'è io, una ricordo, società... io ricordo, Simone, stagioni dell'Inter di Moratti che avrà avuto sentimento, amore e tutto quello che dice lei, e che sono state anche peggio di queste a livello di spettacolo e di risultati. Pier? Sì, anche se questa ha preso una china brutta. Ha preso un po' lo stesso andazzo della stagione scorsa, perché il problema dell'Inter di oggi non è la classifica, il problema dell'Inter di oggi è che non vince più in casa nemmeno col Catania, con tutto il rispetto, insomma. Però quindi io non penso che ci sarà un epilogo stramaccioniano, io non penso che ci sarà lo sfascio dell'anno scorso, perché Mazzarri da questo punto di vista è una garanzia, e mi viene anche da dire che, per dirti, esattamente come l'Inter oggi non se la porta da casa con nessuno, secondo me Juve-Inter non è una partita scontata. Poi chiaramente la Juve è strafavorita, però sì, non finisce a carrettate, come ha scritto un amico prima. A Genova, contro Genova, l'Inter non era dispiaciuta. È una squadra in questo momento che ha un problema enorme dal punto di vista offensivo, secondo me enorme, perché non segna più, e è molto opaca, ma secondo me non è lo sfascio di stramazzoni dell'anno scorso. No, non siamo ancora, che... non siamo ancora a quei livelli. Detto questo, assolutamente sì, insomma, la situazione è grave, ma non è seria. Esatto. Corrado da Milano, Corrado. Sì, buonasera a tutti. Prego. Volevo dire, appunto parlando di calciomercato, che avendo l'Inter bisogno primariamente di un nuovo assetto dirigenziale, a mio avviso quest'anno fare acquisti, dove quando in qualsiasi caso verrà cambiato senz'altro tutto il discorso della dirigenza, con un nuovo progetto, è inutile stare a sperperare soldi. Ormai quest'anno è un anno da finire nel miglior dei modi. Sì, ci sarebbe magari Corrado anche da inseguire l'Europa League. Io ricordo che farà anche schifo l'Europa League, ma sono sempre dai 10 ai 15 milioni di fatturato. Ora non è che l'Inter navighi nell'oro, cioè mi sembra che questa non si possa chiudere come stagione in quinta posizione a fine gennaio, considerarla una stagione finita. Sarebbe credo un errore gravissimo. Pier, condividi? Ma assolutamente no, sai come la penso sull'Europa League. Tra l'altro è un discorso di un cinismo assurdo, ma io voglio dire a tutti noi che purtroppo in questo momento l'Europa League forse è la competizione europea nella quale possiamo fare qualcosa. La drammaticità del calcio italiano in questo momento è questa qua. Poi magari fra 3 anni ce lo auguriamo tutti, torneremo competitivi per vincere la Champions, ma oggi secondo me in Italia l'Europa League non può avere la puzza sotto il naso. No, ma vale anche per chi la farà, a partire dal Napoli e dalla Juventus. Pier, a proposito di puzza sotto il naso, che voto dai all'estetica della nuova Ferrari? Ma guarda, questo veramente mi coglie molto. Ti piace o no? Ti piace no, o non no? Mi piace, esteticamente non mi piace molto, ma come dice Montezemolo, il fatto che sia bella o brutta conta zero, perché l'unica cosa che conta è che sia vincente. Sì, però non piace nemmeno a me. Tutte le stagioni si parte da zero e c'è tutto da dimostrare, quindi se facciamo bene saremo una grande squadra e saremo un team molto forte. Se non facciamo tutto perfetto, un'altra squadra sarà più forte, quindi tocca a noi adesso fare il meglio possibile. Siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici, e non vogliamo perdere, e fa pure me. Io credo che abbiamo messo in piedi una serie di iniziative organizzative, soprattutto per far sì che davvero quest'anno sia una stagione dove dobbiamo portare a casa il risultato ambito che ci manca da un po' di tempo. Ecco che noi cerchiamo di difenderci da queste inequità così palese. Sono stufo e siamo stufi di arrivare secondi, anche se noi siamo l'unica squadra forse al mondo che quando arriva secondo è considerato una sconfitta. Io ho chiesto ai miei di mettercela tutta e ho molta fiducia. Siamo una squadra furbissimi. Carissimo Leo Turrini, a cosa assomiglia quel muso della nuova Ferrari? Un tapiro, una papera, un aspirapolvere, un naso gigante, uno scivolo? Cosa assomiglia? Somiglia e ricorda una canzone di un mio conterraneo, Pierangelo Bertoli, che era intitolata Muso Duro. Non ti viene in mente che questa ci va a Ferrari a muso duro? Canzoni per la strada, tra lì, no? Era però la vita a muso duro. Sai che Fiorello poi l'ha resa popolarissima perché la interpreta sempre nei suoi concerti. No, la cosa bella in attesa dei risultati è che questa è una Ferrari finalmente originale sul piano progettuale. Nel senso che se diamo un'occhiata alle altre monoposto che sono state presentate in questi giorni, sicuramente la rossa non somiglia a nessuno. Sì, io linea, volevo salutare Pardo. No, ce l'ho qui. Pardo, non so se lo fa da voi. Ciao carissimo, hai detto delle cose meravigliose sulla mia Inter che mi fa sanguinare il cuore. Ma voi lo sapete che Pardo è uno straordinario imitatore. Io una mattina, tornando a Cracovia con l'Italia e gli europei in Polonia, gli ho dato un passaggio in taxi. E chi ti ha imitato? Chi ti ha imitato? Ha fatto un Adriano Galliani da paura. Allora glielo facciamo rifare, Pier. Ma Galliani lui... manca. Galliani giù mi manca. Allora, no, quando fai il buon lavoro, fai Galliani che dice buon lavoro. Ma veramente Galliani ho delle difficoltà. Leo, con chi ti sei confuso? Non lo so fare. Adesso ultimamente faccio solo Mica e poi Pizzle e poi Cappella, vai a fare la noncia, vai a fare, va bene. Bravo, dai, la Ferrari deve essere vincente, state pensando bene a Bruno, ragazzi. No, ragazzi, grossa, grossa, sì. Chi vi ascolto, anche chi guarda Tiki Taka, non lo sa, ma veramente Pardo è un genio della metamorfosi, della trasformazione. No, ma lo sanno, no, lo sanno. Al di là delle qualità professionali, io quando eravamo sugli aerei che ci riportavano dalle partite dell'Italia, era notte fonda, magari mi stavo addormentando, si sentiva Pardo dal fondo dell'aereo che stava clonando qualche VIP del calcio e praticamente l'aereo si metteva a ballare dalle risate. Veramente. Dovete girare, mettere tutto su Twitter, Facebook, YouTube, fate voi. Poi Pier chiede i diritti. Abbiamo meno di un minuto, Leo. Posso dirti che io mi sono grattato a sentirti dire è diversa da tutte le altre, perché non è che sia finita benissimo le altre volte. È diversa, questo è fuori discussione, nel senso che spesso la Ferrari ha avuto dei problemi dovuti proprio, diciamo così, alla carenza di creatività e di fantasia dei suoi progettisti. Questo però non vuol mica dire che sia la macchina che arriverà prima al traguardo. No, anzi, le altre volte non... Sai, Montezemolo l'ha detto, siamo stufi di arrivare ai secondi. In realtà partiamo dal terzo posto, Leo, però abbiamo finito. Io ti lascio in eredità a Pier e Carlo, magari domani. Però ci dobbiamo fermare qui. Ciao Leo Turrini. Ciao Pier, anche a te, appuntamento domani alle 14. Ciao Nicolo Schira, un saluto. Ringraziamento a Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato, Pietro Lacorte. Ci risentiamo domenica alle 17.